Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno care amiche e cari amici, oggi cominciamo a parlare di strenne. Siamo in periodo di acquisti natalizi, naturalmente il regalo più semplice ma anche più ricco di significato può essere proprio il libro. Non costa troppi soldi e avete una marea di oggetti fra i quali scegliere. Sicuramente potete trovare qualcosa che si adatta al fortunato che riceverà il vostro regalo. Ve ne segnalerò qualcuno da qui appunto a Natale. Cominciamo con due bei libri, due ricchi libri di illustrazioni ma anche di contenuto che hanno un interesse per gli appassionati di arte e sono legati a due anniversari, uno che cade l'anno prossimo quando festeggeremo il centenario del futurismo e in questa occasione quindi esce il libro di Fabio Benzi, Futurismo, edito da Federico Motta Editore. Il libro ha 380 pagine e costa 135 euro. Un libro ricchissimo di immagini che ci consente di entrare nel più importante fenomeno artistico italiano del Novecento, di cui qua sono esplorate le origini, le diverse anime e i vari contributi. Benzi sintetizza in alcune parole le caratteristiche del futurismo che servono anche a spiegare la scarsa presenza di lavori di sintesi che abbiano finora tentato di cogliere sinteticamente qual è stato l'essenza, l'anima del futurismo. E queste parole che Benzi elenca sono velocità, aggressività e multiformità. Tre parole per spiegare appunto la ricchezza di temi, di provocazioni che sono legate al futurismo. Questo fenomeno poi è strettamente collegato, spiega Benzi, al suo motore primo, così lo chiama, cioè a Filippo Tommaso Marinetti. Quindi l'esame del periodo parte proprio dal 1909 fino al 1944, quando appunto Marinetti muore. Il 9, ricordiamo, fu l'anno nel quale esce su un giornale francese, sul Figaro, il Manifesto Futurista e quindi si avvia questa esperienza artistica. È stato quindi, come avete sentito, un periodo lungo, finora abbastanza poco esplorato, dice l'autore, un po' per ignoranza, un po' per provincialismo, perché si riteneva che tutte le avanguardie dovessero essere nate in Francia o negli Stati Uniti, ma anche, aggiunge l'autore, per una precisa scelta politica ideologica. Benzi infatti ricorda il rigetto per una fastidiosa connivenza tra le punte più alte della creatività internazionale e le ideologie fasciste e aggiunge: meno problemi hanno generato in passato, chissà perché, le connivenze delle avanguardie con la dittatura comunista, peraltro ben più drammatiche negli esiti. Fin qui l'autore. Sentiamo dal libro di Benzi una presentazione di Marinetti che troviamo in una pagina che è dominata dalla riproduzione di una delle opere più famose di Boccioni, Mattino, appunto del 1909. Quando Filippo Tommaso Marinetti pubblica il suo Manifesto del Futurismo sul numero del 20 febbraio 1909 del quotidiano parigino Le Figaro, egli lo concepisce essenzialmente come un proclama letterario. In quell'inizio d'anno 1909, Marinetti è un giovane, ma non più giovanissimo, scrittore e letterato. Ha 32 anni, appena compiuti, e una notorietà potremmo dire di nicchia, ma tuttavia molto ben consolidata sia in campo italiano che francese, anche se non può certamente essere ancora considerato un protagonista o un innovatore del panorama letterario europeo. Di educazione francofona, avendo seguito le scuole francesi nella natia Alessandria d'Egitto, poi a Parigi, dove consegue la maturità, il giovane Marinetti scrive prevalentemente in francese e pubblica a Parigi i suoi primi lavori poetici, stringendo intensi rapporti con il milieu letterario della capitale. In effetti, Marinetti è fin dai suoi anni giovanili un infaticabile e prensile tessitore di rapporti, proiettato su una ricerca estetica che al simbolismo decadente associa un desiderio quasi acre di modernità, fiutandola nelle più disparate direzioni. Se il 9 sarà il centenario del futurismo, il 2008, e cioè l'anno che si sta per chiudere, sarà ricordato come il cinquecentenario di uno dei più grandi architetti, Andrea Palladio, che nacque a Vicenza l'8 novembre del 1508. A lui è dedicato La mano di Palladio di Paolo Portoghesi, illustrato con le foto di Lorenzo Cappellini, 264 pagine, 60 euro, e pubblicato da Allemandi. Tra l'altro le foto di Cappellini sono in mostra a Milano in questo periodo a Palazzo Reale, questa è l'ultima settimana in cui potete vederle. Questo dedicato a Palladio è un libro d'arte che ci fa riscoprire uno degli autentici padri dell'architettura moderna, al quale poi si sarebbero rifatti in tanti, ma solo tempo dopo la sua scomparsa. E il libro è quindi anche un invito a riscoprire la sua opera nelle chiese, nelle ville e nei palazzi che hanno dato un'impronta inconfondibile al Veneto e a Venezia. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno Paolo Portoghesi. Buongiorno. Professor Portoghesi, nel suo libro lei presenta l'eredità immediata di Palladio come un lascito drammatico e inquietante. In fondo molte sue opere non erano state completate, la sua grande opera, i quattro libri, un piano ambizioso come lo definisce, non era stato potuto finire dall'autore e addirittura Palladio risulta che sia stato incompreso per l'immediato. Quindi un'eredità difficile quella di Palladio, che però poi ha dato vita alla costruzione di un mito, di un grande mito architettonico. Sì, credo che sia giusto riflettere su questo. Il mito di Palladio è di una generazione successiva alla sua, mentre la sua opera effettivamente è stata completata solo dopo la sua morte. La sua vita è stata in fondo una vita drammatica, a parte la morte dei figli per la peste, ma diciamo una vita intensa, vissuta con entusiasmo evidentemente, ma anche dolorosa, e di questo c'è traccia anche nei quattro libri. Il primo capitolo del suo libro si intitola Ragione e senso, per sottolineare questo conflitto che c'è stato fra razionalità e senso, sentimento, modo sensuale ed edonistico di esprimersi, come lei lo definisce. Qual è secondo lei la chiave prevalente per interpretare Palladio? Ma diciamo che si è dimostrato nel tempo che ciascuna epoca ha scoperto il suo Palladio, quindi forse per noi è il Palladio dell'inquietudine, di questa straordinaria capacità nel linguaggio oggettivo di introdurre invece degli elementi appunto di sensualità e di sentimentalità. Nel periodo neoclassico Palladio è stato visto soprattutto come il più rigoroso interprete dell'antichità romana, l'uomo che ha dato regole per due secoli di fioritura dell'architettura classica. Ecco, oggi noi non lo vediamo più in questo senso, lo vediamo però come un esempio di una produzione artistica dominata dalla serenità, una sorta di Mozart dell'architettura, direi, e questo è un elemento molto importante. E questo emerge molto bene anche dalle foto di Lorenzo Cappellini, mi sembra. Esatto, Cappellini ha fatto un magnifico servizio, che ha guardato Palladio non diciamo con l'occhio accademico, curando che tutte le immagini fossero in bolla, cioè con le linee verticali rigorosamente parallele, ma invece interpretandolo come si interpretano dei volti, quindi diciamo è una galleria di volti di architetture quella che Cappellini ha saputo fare. Senta, qual è la lezione di Palladio nella fase attuale in cui si discute tanto del ruolo degli architetti, cioè di una volontà dell'architetto un po' di prevalere anche con la sua produzione sull'ambiente circostante? Ma io credo che Palladio, se avesse vissuto nel nostro tempo, avrebbe combattuto, come del resto ha fatto nella sua epoca, contro gli abusi. E gli abusi cosa sono? Sono eccessi di autonomia e di indipendenza rispetto a una disciplina che non appartiene solo agli architetti, perché in fondo l'architettura è qualcosa in cui noi viviamo, qualunque sia il mestiere che esercitiamo. L'architettura di Palladio ha questo sapore corale, cioè è un'architettura basata su delle convenzioni, comprensibile da un vastissimo pubblico, perché diciamo queste convenzioni sono convenzioni di dominio comune. Ecco, oggi ogni architetto vuole reinventare l'architettura, i famosi archistar, ognuno ha il suo stile e continua a esprimersi in questo stile, separandosi sempre di più in un certo senso dalla comunità, perché appunto questo stile è costruito sulla base di esigenze di carattere espressivo. Palladio secondo me era conscio del fatto che l'architettura è qualcosa di dominio universale, che serve per migliorare la vita degli uomini, e anche per interpretare le loro idee. Ha avuto la fortuna di incontrare un gruppo di aristocratici, prima vicentini e poi veneziani, che lo hanno aiutato a combattere una battaglia che era la battaglia per uno stile di vita, per un modo di pensare, diciamo, diverso da quello del passato. Ecco, questo oggi purtroppo non avviene, c'è da augurarsi che avverrà in futuro. Del resto, un secolo prima di scoprire la sua vera identità ha bisogno di una ventina d'anni, e noi siamo soltanto agli inizi del XXI. Auguriamoci che lo stile del XXI tenga conto del grande insegnamento di Palladio. Grazie a Paolo Portoghesi, autore di La mano di Palladio. Grazie a voi. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Adesso sentiamo un consiglio appunto per gli acquisti natalizi. Un libro per Natale. Buongiorno al ministro Sandro Bondi. Buongiorno a lei. Ministro Bondi, che libro regalerà allora per Natale? Beh, regalerò alcuni libri agli amici più cari. In particolare mi piacerebbe regalare un libro del cardinale Carlo Maria Martini, titolato Conversazioni notturne a Gerusalemme, perché mi sembra un libro che si adatta molto a una riflessione, a una meditazione durante queste vacanze natalizie. Questo libro del cardinale Martini è sottotitolato Sul rischio della fede. Lei condivide il fatto che la fede possa essere un rischio, come scrive il cardinale Martini? Sì, questo libro è molto bello, molto interessante, soprattutto per questo, perché fa comprendere la figura di un uomo di chiesa, di un ecclesiastico importante come il Cardinal Martini, che è stato cardinale di Milano per tanti anni, è stata una figura importante ed è una figura importante nell'ambito della Chiesa Cattolica, e fa emergere però una figura di un teologo, di un uomo, di un ecclesiastico, ancora oggi alle prese con i dubbi che agitano l'animo umano rispetto ai problemi del male nel mondo e anche sul fatto di una fede che non è una fede sicura, è una fede sempre caratterizzata da un'angoscia, da un'insicurezza, da una domanda di aiuto, di tenerezza. Questo è l'aspetto più bello del libro, che fa emergere una figura umana particolarmente interessante. E infatti, a proposito del dubbio, qualche ambiente cattolico ha un po' arricciato il naso davanti a questo libro. Invece io penso che questo sia un fatto molto positivo del Cardinal Martini, cioè questo fatto di porsi in ascolto, soprattutto in ascolto dei giovani, e questo insistere su una Chiesa che guardi al futuro, che si apra alle esigenze nuove del tempo in cui viviamo e soprattutto alle domande a volte angoscianti, a volte interessanti, dei giovani soprattutto. Io trovo che questo libro è un libro importante oggi e credo che il Cardinal Martini ci imponga delle riflessioni importanti su cui è bene che tutti noi riflettiamo. Bene, grazie al ministro Bondi, grazie per questa indicazione di regalo natalizio e naturalmente buona preparazione a Natale. Grazie. Il libro di cui ci ha parlato il ministro Bondi si intitola dunque Conversazioni notturne a Gerusalemme sul rischio della fede ed è di Carlo Maria Martini, scritto con Georg Poschil, che è un gesuita austriaco. Il libro è pubblicato da Mondadori, 124 pagine, 17 euro. Un gesuita sui generis troviamo nel libro di Riccardo Chiaberge La variabile Dio. In cosa credono gli scienziati? Un confronto tra George Coyne e Arno Penzias, l'astronomo di Wojtyła e il Nobel che ha captato il Big Bang. Il libro è pubblicato da Longanesi, 196 pagine, 14,60 euro. Il gesuita è il primo, George Coyne, che è stato direttore della Specola Vaticana, l'osservatorio astronomico della Santa Sede, che ha un nuovo avanzatissimo centro in Arizona, oltre a quello tradizionale a Castel Gandolfo. Quello nuovo si trova presso Tucson, dove tuttora studia il padre gesuita. Chiaberge, proprio a Tucson, organizza un lungo colloquio tra il gesuita e un altro grande scienziato, appunto Arno Penzias, premio Nobel per la fisica nel 1978, e proveniente da una famiglia di ebrei sfuggita al nazismo, rifugiatasi negli Stati Uniti e rimasta fortemente legata alle proprie tradizioni religiose. I due sono entrambi grandi scienziati, sostanzialmente ovviamente coetanei e interessati, comunque sensibili alle questioni religiose. Il primo ovviamente è perché è un gesuita, l'altro, lo scienziato laico, dichiara: vorrei credere in Dio ma non posso credere in un Dio antropomorfico. E poi conclude: in ogni caso, dice Penzias, io guardo a un mondo in cui Dio non interviene, il punto che divide me e George, e di questo stiamo discutendo qui e oggi. E appunto il libro dà conto di questo lungo colloquio che si svolge nella casa del gesuita su un tema di grande attualità, del quale si continua a discutere molto spesso anche con grandi banalità, e che invece viene reso in termini molto chiari, intelligibili, da parte dell'autore, di Riccardo Chiaberge, che accompagna i due scienziati nel loro dialogo. Chiaberge, nella dedica che mi ha fatto nella copia del libro, si definisce miscredente, ma affronta questo tema con grande sensibilità, rifuggendo da toni definitivi e mostrando grande rispetto per le posizioni che emergono. Tra l'altro, gli studi di Coyne e di Penzias hanno a che fare proprio con l'origine dell'universo e quindi entrano nella polemica tra creazionisti ed evoluzionisti. E così, tra incursione nella teologia e illustrazioni delle più recenti scoperte scientifiche, il dialogo procede fino ad affrontare anche altre questioni dove pure si è fatto più acceso lo scontro con le posizioni della Chiesa Cattolica, per esempio in tema di ricerca sulle cellule staminali. Naturalmente il libro di Chiaberge non si pone l'obiettivo di risolvere il contrasto scienza-religione, ma Chiaberge, laicamente e meritoriamente, credo, si sforzi di dimostrare che il conflitto non è inevitabile, come scrive, e che ci può essere un percorso di libertà e reciproca tolleranza che potrebbe bloccare le posizioni più intransigenti e intolleranti, presenti anche tra molti scienziati che accusano semplicemente di superstizione la religione. Si rifà nel titolo a Dio, anzi al Padre, il romanzo che ora vi segnalo, Eloi, Eloi, di Alain Kustovic, pubblicato da Mondadori, 308 pagine, 9 euro. L'autore è un giovane scrittore di Mostar, ormai italianizzato, anzi credo milanesizzato, e che ha scritto un libro che non avevo avuto ancora il tempo di leggere, ma che mi è stato segnalato con molto calore da un ascoltatore di Foggia, il signor Giuseppe, che saluto e che ringrazio per questa segnalazione. In fondo la recensione del signor Giuseppe è talmente efficace che credo possa bastare. Ve la faccio sentire. Le scrivo per segnalarle un libro molto valido che ho appena finito di leggere. Il romanzo si chiama Eloi Eloi di Alain Kustovic, giovanissimo autore italianizzato di origini bosniache. Mi ha colpito perché riesce a narrare una storia vicina e lontana allo stesso tempo, perché riesce a far riflettere, sul serio, sui grandi e veri temi. Il titolo del romanzo riprende un'espressione in aramaico, Eloi Eloi, lema sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato?, ovvero la frase che avrebbe pronunciato Gesù in croce prima di spirare. Sebbene il libro svisceri con sapienza la dimensione del dolore, eterno cruccio dell'uomo, tuttavia ne risale carico di speranza. Anche se quest'autore ha appena 26 anni, scrive con maturità dell'uomo vissuto e con uno stile accattivante. Le ho scritto perché, a dispetto delle mille pubblicazioni disfattiste, ciniche e scritte con logiche di puro marketing, io credo che oggi ci sia bisogno di libri ricolmi di speranza. Così volevo condividere con lei, con chi allieta piacevolmente le mie domeniche, una lettura intelligente. Non ho molto da aggiungere, dico solo che poi il libro l'ho letto e che credo che il signor Giuseppe abbia ragione. Si tratta di una storia intrecciata di due vite, un profugo bosniaco e un ex prete cattolico di cui il primo diventa il badante a Milano. I due sono uniti da un passato tragico, seppure per ragioni molto diverse, e dall'impossibilità a ricostruire ed accettare questo passato. Ma dalla convivenza e dal confronto riconquisteranno fiducia in se stessi, forza e serenità per poter vivere l'uno e per poter morire serenamente l'altro. Naturalmente sarò sempre molto lieto di ricevere vostre segnalazioni. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it. E a questo punto il confettino. Ricorre mercoledì prossimo il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo proclamati dalle Nazioni Unite. Spiegano i più piccoli il significato di quel documento 22 artisti di tutto il mondo, un articolo per ciascuno, introdotti da una poesia del nostro Roberto Piumini. Tutto ciò avviene nel libro Siamo nati tutti liberi, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani spiegata ai bambini. È pubblicato dalle Edizioni Paoline in collaborazione con Amnesty International. Il libro costa 16 euro ed è stato tradotto da Francesca Fabris. Ai genitori interessati a questo tema segnalo il libro di un grande giurista italiano, Antonio Cassese, che è stato anche il primo presidente della Corte Penale Internazionale per i delitti commessi nell'ex Jugoslavia. Il libro si intitola Voci contro la barbarie, la battaglia per i diritti umani attraverso i suoi protagonisti, pubblicato da Feltrinelli, 384 pagine, 25 euro. Questo libro spiega come è nata la concezione dei diritti umani attraverso un'antologia che va da grandi classici come Benjamin Constant, Norberto Bobbio, Eleanora Roosevelt, seguite poi queste voci da una serie di altri interventi e da alcune pagine particolarmente scandalose nella storia dell'umanità e altre che invece illustrano gli sforzi e le figure che hanno reso possibili questi sforzi per combattere queste barbarie e per affermare appunto i diritti dell'uomo in tutto il mondo. Prima di salutarci ricordo che domani si conclude a Roma la 7ª fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, che si svolge al Palazzo dei Congressi all'Eur. E con questo ringrazio Laura Marchesi, Daniele Casagrande in redazione, Filippo Auregi in regia. Vi do appuntamento a domenica prossima, passo la linea a Respiro di Laura Bettini e vi auguro buona settimana.